Alcune profezie convergono su novembre 2011 come data dell'Apocalisse. Nel bagno della produzione questo numero appare e riappare da sempre, 11 più 11, senza che nessuno ridipinga il muro, almeno io non ho mai visto eseguire questa operazione. Quando lo faccio notare le persone cambiano discorso, cioè tornano sullo stesso discorso. Il campionato di calcio, se sono maschi, la parola è se sono femmine. Ma non sono convincenti nel trattarmi da idiota drogato. Non riescono a dissimulare l'emozione. Sembrano leggermente scossi, come se tutti sapessero qualcosa che io non so. Quando militavo al controllo qualità, nessun calendario di verifiche e certificazioni prevedeva l'anno 2012. Nell'armadio dell'omino delle procedure, chiuso a chiave in un cassetto, avevo scorto per pochi secondi un raccoglitore a molle con la copertina di pelle nera e la croce ribaltata sbalzata color oro. Alla richiesta di spiegazioni l'omino era stato evasivo. Aveva chiuso la questione con una risposta assurda. Stava studiando da diacono. Strana spiegazione. Per questo servizio sono necessari coerenza e limpidezza d'animo, fede cristallina. L'omino aveva in sé già tutte le qualità necessarie, conservava la saggezza e la conoscenza. Era dignitoso, mai doppio nel parlare, solo non poteva rispondere sinceramente alla mia domanda. Non era disonestà intellettuale, io non ero pronto alla risposta. Se fosse ancora in vita, chiederei a lui del futuro prossimo della nostra azienda. A quali sventure andremo incontro nei prossimi mesi? Alle ragazze non interessava il futuro, nonostante il mensile Astra, sempre presente sul tavolo della merenda e delle pause. Sono leggere, al massimo del proprio splendore. Notai tre ragazze aggrappate alla ringhiera della scala che porta all'ufficio. Avevano un altro umore. A parlare era la meno carina, bassa di statura, viso anonimo, fisico massiccio, una di quelle per le quali il seno grosso funge solo da arma di offesa. Le altre ascoltavano, si portavano le mani alla bocca, sporgevano il mento. Al gruppo si stava aggiungendo la Ghedini. Il Frank mi arrivò alle spalle, silenzioso e gonfio di veleno come una serpe. «Non devi aver trattato bene la tua schiava nuova. Ti sei divertito a tormentarla? Hai fatto bene. Avrei fatto lo stesso. Se era un idiota, hai fatto benissimo a farlo presente alla capa. Se lei lavora male, sono tutti cazzi tuoi che le hai insegnato male. E che cazzo? Aveva la faccia da ebrea. Ebrea di origine polacca. Si chiamava Esther, se non sbaglio. Bravo, vecchio. Non devi mica sentirti in colpa. Mi sa che era arrivata già esaurita». Ero già meno sereno, anche se non capivo le parole del Frank. Stava appoggiato al suo muletto. Aveva acceso la paglia che gli penzolava fissa dalle labbra. Pensava di essere Clint Eastwood. L'enorme antifumo non lo avevano mai riguardato. Le tre molecole portatrici di sventura si staccarono dalla ringhiera e, come amebe tossiche, si unirono al resto del branco cellulare. Stazionavano in osmosi attorno al tavolone, in attesa della sirena. La sirena suonò e le donne non si diressero verso le linee. La Ghedini non le rimproverò. Ondate di negatività mi tolsero il respiro. Il viso mi avvampò. Al solito tradisco così la mia emotività. I miei esercizi di autocontrollo non funzionano. Deve essere una tara genetica, stampata nel DNA. Mi pentii di non aver a portata di mano l'involucro con la roba. Iniziai a ripetere cosa è successo come un disco rotto, proprio quando avevo perfettamente capito quello che era successo. L'avevano trovata i figli, uno di 6 e uno di 8. Si erano svegliati da soli, quando si erano resi conto che era scappata l'ora per raggiungere la scuola in tempo utile. Li vedevo arrangiarsi in bagno. Il più grande avrà messo il dentifricio sugli spazzolini, eseguendo davanti allo specchio l'operazione per primo. Il piccolo lo avrà imitato, con un po' d'impaccio. In cucina la luce era ancora spenta. Il padre tutte le mattine lascia la casa verso le 6 e fa colazione al bar di piazza. I due marmocchi avevano esplorato le stanze della casa, emettendo il verso caratteristico dei cuccioli. «Mamma! Mamma! Mamma!» fino all'ultimo ambiente, quello adibito alle festicciole tra gruppi familiari, grigliate, serate, castagne e vino novello. La trave della tavernetta aveva ceduto per quei 50 chili scarsi, ma lei era morta lo stesso, spezzandosi l'osso del collo. Sembrava una di quelle storie che racconto in mensa. Non provavo alcun senso di colpa, mi sentivo solo derubato della parte di cantastorie, fregato dalla realtà. Non era colpa mia. Cazzo c'entravo io? Pensate davvero che io possa essere stato determinante? Quella donna aveva i suoi problemi. Non c'è mai una sola ragione che porta al suicidio. È sempre una serie di concause. Uno si sente stretto, circondato da tutte le parti, non si vede una via d'uscita. Avrebbe dovuto rivolgersi a uno strizzacervelli. Uno bravo. Mi girai, ficcai la chiavetta nella macchina del caffè e digitai 31, caffè lungo. Avevo molti occhi che pesavano sulla schiena. Li percepivo. Forse era solo paranoia. Non ricordavo più se avessi ancora eroina. Avevo il cervello in merda. Non ricordavo se l'avevo finita. Sbagliai a digitare il numero. Nel bicchiere di plastica c'era una brodaglia indefinita. Poteva essere cappuccino di caffè d'orzo. Poteva essere diarrea molto liquida di cagnolino casalingo. Lo sorbii, rivolto alla macchinetta, quando una mano ruvida si appoggiò alla spalla. Mi girai di scatto per colpire. «Cercavi questa? Hai bisogno di questa? Ti calma i sensi di colpa? Per quanto tempo? Un'ora? È così buona che potrebbe farti vegetare sereno per così tanto?» Il Frank teneva l'involucro di plastica trasparente sul palmo della mano. Strinse i pugni e li mise dietro alla schiena, quindi me li ripresentò. Doveva aver frugato nelle tasche del mio giubbotto. Mi ero scordato di metterla nell'armadietto. Avevo infranto una regola fondamentale di sicurezza. Ero stato punito. «Dai, vecchio, indovina dov'è e fatti un'ora come si deve. È un tre quarti di grammo. Se vuoi ti procuro la spada e te la spari tutta nei cessi della fabbrica. Una bella fine, no? Pensa quando arriva l'ambulanza. Questi elementi avranno qualcosa di cui parlare per un po'. Ti saranno tutti grati». Quando urlò il Frank, gli uscì una voce inaspettatamente stridula. Sembrava un femminiello che starnazzava perché arrivasse il suo protettore, che puntuale si materializzò. Marani chiese spiegazioni. Per una cosa così rischiavo il licenziamento. Gli avevo appena fornito uno splendido pretesto. Il Frank aveva il volto arrossato, ma nessuna ustione. Nemmeno si ripulì dalla brodaglia scura che gli rigava le guance. Dopo l'urlo se ne stava in silenzio. Nessuna protesta. Recuperai l'involucro mentre tutta l'attenzione era focalizzata su di lui. Il Frank strattonò con violenza il dirigente e mi venne a parlare in faccia, naso contro naso. Solo io potevo sentire le parole. «Dobbiamo collaborare io e te. Davvero non capisci? Perché non ti entra in testa?» La segretaria di Marani ha la pessima abitudine di mangiarsi le pellicine delle dita. Ti guarda da dietro il vetro dell'ufficio e vedi il digrignare di denti. Non ha ritegno in questa pratica irritante. È una scimmia. Quando si alza per fare i due passi e mezzo che dividono lo scrivania stampante, toglie il fiato. La schiena si inarca verso l'immenso, le spalle sono toniche, clavicole e bucate. La zona inguinale è ampia e spaziosa. Percentuale di grasso al 10%. Una scimmia con un culo fantastico, nonostante due gravidanze che sono scivolate via senza lasciare ferite evidenti. Parlotta solo con altre macchine da prole. Quando mi avvicino si scosta, si stringe ancora di più nei suoi 45 kg e non mi fissa nemmeno per pochi centesimi di secondo. Continua a scambiare banalità familiari con le altre comari. Un giorno avevo deciso di rompere il ghiaccio. Le avevo raccontato di un mio amico di Roma che aveva scritto un libro sul disastro che provoca il posto fisso nel cervello umano. 12 racconti in progressione geometrica, dall'ironia su per il grottesco fino all'angoscia pura di un film dell'orrore. Un piccolo capolavoro. Le avevo detto delle scimmie di Vergara. Un dirigente uscito di testa le allevava in ufficio. Poi un giorno erano scappate dalla finestra e si erano appollaiate sugli alberi nel parco, per l'imbarazzo e l'ilarità generale. Non so perché le avevo menzionato questo episodio. Insomma, allora non lo sapevo. Oggi realizzo che è proprio per la sua somiglianza con l'animale in oggetto. Il fatto che possiamo essere attratti sessualmente da una donna che evidenzia tratti animali non dovrebbe lasciare dubbi sulla teoria di Darwin. Da allora la segretaria di Marani non mi rivolge la parola. Eppure io credevo di acquistare credibilità con quell'aneddoto pseudoculturale che nel mio cervello suonava benissimo. Poi le parole mi erano morte in bocca. E lei, davanti al mio aborto, aveva spalancato due occhi attoniti, come mi fossi espresso in una lingua straniera. come fossi rimasto nudo come un verme. La segretaria di Marani era sempre molto cortese con il Frank. Non capivo cosa potessero avere in comune. Lei gli offriva il caffè e divideva con lui dei quadretti di cioccolata fondente ecosolidale che si portava da casa. La cioccolata fondente al 90% di cacao è un blando eccitante. Alla scimmia brillavano gli occhi, parlavano, ancora non riesco a capire di cosa, ma non potevo avvicinarmi. Appena lei si incamminava verso l'ufficio, lui la imitava nel gesto di mangiucchiarsi le pellicine delle dita e facendo gli occhi strabici. Non mi ero mai reso conto del suo strabismo e la sua magrezza forse è davvero eccessiva. La segretaria di Marani è la mia signorina Silvani. Il fantasma di Fantozzi mi perseguita. È la maledizione del lavoratore dipendente. È la mia maledizione. Riconoscere il pericolo non mi ha salvato. Il gorgo aziendale mi ha risucchiato l'esistenza. Non ho saputo essere altro, idiota tra gli idioti. Il Frank sapeva intercettare i miei pensieri. Era sulla mia stessa frequenza, più di quanto io fossi disposto ad ammettere. Questo posto è un microcosmo che si fa sempre più piccolo e claustrofobico. Non c'è quasi più ossigeno ad alimentarmi il cervello. «Ti piace la scimmia?» «Le romperai il culo!» «Non fare il duro, non mi freghi! Devi essere un sentimentale, vero?» «Solo quando inculo la tua sorellina piccola, perché mi sono stufato di tua madre. Mi prende una specie di romanticismo, così che non riesco a squartarla dopo che sono venuto. La uso ancora un paio di volte prima di sezionarla, per vedere com'è fatta dentro.» «Risposta esatta. Ma non ho finito con le domande. Sai cos'è l'aquila del deserto?» «No, gli uccelli forse piacciono solo a te, ma stammi alla larga, che da me non tiri su niente.» «Più che altro piacciono a mio padre. Ci crederesti che quel coglione è un appassionato di armi automatiche? Sembra un bonaccione, ma non sai cosa gli passa per la testa. Ha sparato anche dietro a un albanese che faceva rapine di pomeriggio in paese. Pensa che faccia di cazzo, in pieno giorno, mentre la gente è al lavoro. L'ha sbagliato di poco. L'aquila è un regalo di papà per i miei 18. Pare piaccia un sacco alle donne, specie in America, ma ha un rinculo troppo violento. Ne ha anche una che spara a raffica appena appoggi il dito sul grilletto. È una mitraglietta molto pratica, ma non mi dà il gusto. Mio padre mi ha insegnato a sparare che avevo 13 anni. Andavamo in montagna con dei suoi amici, di sicuro li conosci. Hanno la tua età, più o meno. Tutti vestiti in mimetica, piuttosto patetici, ma mi sono divertito. Mio padre ha dei traffici con altri collezionisti, armi molto particolari, non denunciate. Perché mi racconti queste cose? Usalo quel cervello marcio, usa quello che ne rimane. Ho il vomito, di te, di tuo padre, dei suoi amici vestiti di verde che giocano alla guerra. Può darsi. Magari con la tipa ebrea hai lavorato bene di psicologia, non voglio nemmeno sapere i dettagli. Ma non puoi sperare che tutti qua dentro si impicchino a trave con le loro mani, solo per farti piacere. Senti, io non c'entro un cazzo con questa storia. La ragazza aveva i suoi problemi e questo posto ti distrugge il cervello definitivamente. Non le hanno rinnovato il contratto, mica decido io. Ho cercato di aiutarla. E quando oscillava dalla corda era per ringraziarti del tuo aiuto? I cani muovono la coda. Sei troppo modesto. Dovresti essere meno modesto. Non è una qualità. Devi venderti meglio. Nel pomeriggio presi per il collo la facilitatrice della mia linea. Sarà stato perché non mi dava mai il cambio per andare in bagno e arrivavo alla pausa comune senza aver urinato. Sarà che queste dementi scaricano tutti i problemi verso il basso della scala gerarchica. Non aveva fatto presente alla Ghedini l'impossibilità di dare tutti i cambi in tempo utile. Non è pertanto strano che le masse, più che con il potere e i suoi apparati, giochino la vera partita all'interno dei propri mondi? Scrive Emilio Quadrelli. In Andare ai resti si occupa di comportamenti criminali, in particolare delle dinamiche che si sviluppano in carcere. Queste idiote dunque non fanno nulla di originale. State pensando che questo le ponga a loro favore, come nel caso del rettilario dell'ufficio spedizioni. Esse così sono perché altro non potrebbero essere. Quindi non sussiste alcun capo di imputazione. Una sorta di incapacità di intendere e di volere che le dovrebbe mettere al riparo da critiche severe e punizioni. Se davvero liquidate così questo inferno, meritate anche di peggio la vita possa riservarvi. Leggetevelo Andare ai resti. Ho conosciuto Quadrelli a Bologna una sera d'estate. Aveva presentato un testo sulla Rote Arme Fraktion. Poi, fuori dalla libreria, un'amica comune ci aveva presentati. Con Quadrelli avevo parlato solo di pesistica e alzate di potenza, l'unica cosa che avevamo davvero in comune. Lui sembrava felice di uscire dalle analisi della lotta armata anni 70 e dall'antropologia sociopolitica. Era rilassante parlare di gare e programmi di allenamento, chilogrammi sollevati e piazzamenti in gare ufficiali. Era una primavera lontana. Allora avevo una vita sociale e amici cari. Qualche straccio di speranza. Rimane il fatto che giovedì stavo davvero per staccare la testa alla tipa. Sarà che la sua parte di lavoro la eseguiva malamente, facendo pochi giri al supermarket. Sul carretto si accumulavano una montagna di scatole piene e io dovevo smistare il materiale in modo disordinato. Sarà che dentro la linea dovevamo lavorare in quattro e invece lei si ficcava in postazione e tirava il gruppo, così che il ventre della linea diventava una voragine, un mostro ingordo che dovevo sfamare fuori dallo standard di lavoro. Lavorava come una pazza. Quando andava in postazione a tirare, diceva che aiutava le altre operaie. Chi stava aiutando? Si trattava di intendersi sui termini, sulla lingua italiana. Il solito crimine aziendale, la solita bestemmia, il delitto senza movente. Non agevolava un amaro cazzo alle altre operaie, le strozzava sempre di più, entrava in postazione e lavorava pure lei, e per me alimentare la linea si faceva impresa difficile. Uscivano così numeri altissimi di gruppi prodotti e lei si poteva vantare di questa performance ottenuta con un inganno insensato. Entrò in conflitto con la facilitatrice dell'altra linea, a cui rimproveravano di non raggiungere gli stessi numeri. Ci furono urli, scazzi, pianti, avverse fazioni in conflitto. Durante la pausa delle 15:30 fece la sua comparsa Marani per sedare gli animi. L'aveva chiamato la Ghedini, a cui non conveniva prendere le parti di una delle due fazioni, almeno in questa prima fase del conflitto. Camicia bianca, braccia conserte, gomiti spigolosi. Marani se ne stava in silenzio a vedere le due donne beccarsi come galline malate. Era chiaro chi avesse torto e chi avesse ragione, ma neanche lui si schierò apertamente. Ma dal giorno seguente, la facilitatrice che si atteneva alle regole e faceva numeri inferiori venne rimossa dall'incarico. Venne così premiato quell'inutile ardore. Il mercato dell'auto si sta sgretolando. A breve tutta questa tarantella sarà un ricordo. Le alte performance si disveleranno nella loro inutilità folle. Questa velocità anticipa la nostra fine, magari di poche ore. Avrei dovuto prendere la parola durante quell'improvvisata riunione di riconciliazione. Avrei dovuto parlare di decrescita felice. Invece me ne stetti in un angolo a registrare quella pièce di teatro dell'assurdo. Quando riprendemmo il lavoro, mi comportai correttamente. Le agevolavo il lavoro tagliando le scatole vuote, mi davo da fare oltre ogni decenza. Prima di perdere la testa, avevo deglutito due giorni. Poi, senza alcun segno premonitore, le ero saltato al collo. Avevo scaricato le batterie dell'MP3. L'ultima eroina bianca che il Frank mi aveva restituito mi era parsa troppo leggera. La tipa lavoravo male, io non protestavo, ma non perdevo occasione di riprendermi per ogni scempiaggine, per ogni misero dettaglio fuori dal suo schema mentale da scimmia impazzita. Era seguita una bolla di armistizio molto labile. Mi aveva detto che avevo reagito in modo sproporzionato perché avevo problemi personali. La questione nemmeno si poneva. Io non ho problemi personali, perché non ho alcuna vita personale, almeno nel senso cui lei voleva sottintendere. Non ho più una vita esterna. Non ho mogli, non ho figli, non ho animali domestici, non ho familiari, non dipendo da nessuno, nessuno dipende da me, non ho piante da innaffiare, non ho affetti, solo qualche pulsione che riesco a stemperare e reprimere senza problemi con l'eroina. Non frequento alcun centro di aggregazione paesano. Bar, gelaterie, palestre. Nessuno si è accorto che appaio solo in questo luogo? Ho smesso anche di andare in città per l'eroina. Sono un cliente fidato e costante. Un pusher mi raggiunge nel parcheggio e provvede alla cura sedativa. Eppure, questa demente chiede conto dei miei problemi personali, intendendo personale tutto quello che esula dalle mura che cingono questa fabbrica. Nell'ultima settimana poi ho interrotto ogni flusso di informazione, ma non ho ancora raggiunto la perfezione algida. Il congedo dall'umano non è completo. Ma nulla è omaggio. Gli esercizi continuano. Il lavoro sulla mia persona è stato implacabile. Stavo valutando tutti i capi di imputazione degli abitanti di questa azienda, le aggravanti, le attenuanti, alibi e grado di premeditazione. Episodi assurdi come questo mi stavano dando la forza necessaria. Non si sono resi conto di essere sotto esame e non potevano sapere quanto fosse alta la posta in gioco, se alto ritenete il valore di questo esistere, perché di sicuro non gli aveva mai sfiorato il cervello la consapevolezza di essere pulviscolo, forfora di materia, battito di ciglia e che di ogni dolore fisico-morale non rimarrà testimonianza o traccia. Sono la piccola divinità deforme, il folletto crudele che chiuderà ogni conto. Visto che non succede mai nulla di rilevante in questo posto, la vicenda della mia aggressione era destinata a lievitare di bocca in bocca. Lo strattone sarebbe diventato un cazzotto. Le amiche fidate della tipa mormoravano a mezza voce di azioni disciplinari ufficiali. Adesso gli arriva la lettera e alla terza lo licenziano. Poco distante dalla zona della mia linea, una nube di signorotti della middle class rendeva omaggio a un ex dipendente in visita di cortesia. Avevo sbalzi di pressione. Una specie di paresi mi bloccava il viso in una smorfia rabbiosa. Loro ridevano, conversavano amabilmente. Era giovedì per tutti, che vuol dire quasi venerdì, e l'aria morta della primavera padana arrivava dalle bocche di carico promettendo un weekend sereno. Gite nelle località turistiche della Riviera Adriatica, gite in città, manutenzione del giardino della bifamiliare, centri commerciali, ronde lungo la pedonale adibita a cani e bambini. Li guardavo e avevo il vomito. L'ex dipendente lo conoscevo bene, un ex tecnico del manufacturing, in quota al direttore generale dimissionario. Un paio di anni fa per poco non gli scaraventai un gruppo condizionato addosso. Avevo le mie buone ragioni, dovete credermi. Lo ignorai mentre passavo con il carretto in prossimità del gruppo. Era vestito da motociclista, tuta integrale di pelle nera. Non saprei guidare una moto da strada, ma soprattutto non potrei mai indossare una tuta da motociclista in pelle nera, rifinita di rosso nelle giunture articolari. Le persone che indossano tute di pelle integrali senza sentirsi ridicole sono esseri umani a me estranei. Altra chimica cellulare, nulla da condividere. Iniziavo a sentirmi davvero male fisicamente, non riuscivo a tenere i giri di rifornimento. E l'odio che provavo in quel momento, invece di darmi vigore, mi fiaccava lo spirito e il corpo. Nel momento in cui ero più debole, arrivò il Frank. Guidava un carrello elevatore verde nuovissimo. Era lui il collaudatore. I signorotti lo salutarono vistosamente. Era già uno della cricca, senza aver fatto nessuno sforzo apparente per accedervi. Li ignorò e mi affiancò. Poteva infierire. Ero indifeso come non mai. Poteva uccidermi. In quel momento il battito d'ali di una farfalla avrebbe avuto gli effetti di un ciclone. Uno sputo mi avrebbe affogato. Ma stupì. «Hai fatto bene, Ale. Io posso testimoniare che l'hai appena sfiorata quella scema. È tutta la settimana che lavoro a cazzo per far uscire due pezzi in più. Posso raccontarlo a Marani? E queste altre facce di merda che ridono? Cosa ci rappresentano? Neanche le mura di questa fogna dovranno rimanere in piedi. Pagheranno, Ale. Pagheranno caro». Pagheranno tutto.